l'altra Europa. Eccoci qua in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 con l'altra Europa, il nostro appuntamento settimanale con l'Europa, questa Europa che ci fa soffrire. Questa mattina ci siamo svegliati un po' tutti declassati, c'è questo attacco all'euro, così è stato definito. L'attualità europea che viene raccontata giorno per giorno da Radio 24, noi il sabato cerchiamo di portare anche altre sfumature, altri punti di vista, e tenteremo di farlo anche oggi. Un programma in collaborazione con Euronet, euronet.eu, il portale che raccoglie tante voci da tutta Europa, temi comuni, inchieste, reportage, per appunto respirare quella che vuole essere l'Unione, non solo Bruxelles, non solo il palazzo, non solo le normative, ma appunto quella che è la quotidianità. Ci trovate su Facebook, nelle nostre pagine ufficiali, oppure in Twitter, @ Federico Taddia, i link, le coordinate di tutti gli argomenti che andiamo a toccare, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Si parte anche oggi, prima tappa, l'Irlanda. Why I'm here personally? Yeah. Although I'm a business person as opposed to a student or an academic or long-term unemployed or a mother or a parent, I'm here because I can't sleep at night, basically, knowing that there's a vast wealth inequality, not only in this country, but in the world at large. Now the lessons of the past will learn with workers' blood. Occupy Ireland. L'occupazione anche in Irlanda è stata una delle cifre di questi mesi, come in tutta Europa, ma come in tutto il mondo. Un'occupazione però che ha preso una chiave particolare, come è successo anche in altre nazioni. Abbiamo parlato poche settimane fa dalla Spagna, c'è questa occupazione delle case sfitte, di case o magari pignorate dalle banche, o case in vendute, o case che non si riescono ad affittare. Ci sono occupazioni non solo simboliche, perché tantissime famiglie, anche della classe media, si trovano senza abitazione, e quindi c'è questa urgenza, questa emergenza, e dove si tenta di trovare una soluzione nell'occupazione di queste abitazioni. Una protesta che è stata appunto etichettata occupi, in tanti hanno detto ma no, sono solo il movimento degli squatter, e invece no, in Irlanda appunto tantissime famiglie stanno appoggiando questo movimento, anche perché trovano un tetto. Per parlare del fenomeno abbiamo trovato una voce irlandese, lo ritroviamo, anzi un amico dell'altra Europa, è il corrispondente da Roma per l'Irish Times. Diamo il benvenuto a Patrick Henew. Ciao Patrick, buongiorno. Sì, buongiorno Federica, buongiorno ai nostri ascoltatori. Ho tentato di fotografare la situazione per quello che ho letto, per quello che ho studiato in questi giorni. Qual è la realtà? Ma tu l'hai fotografata abbastanza bene, devo dire, ma la realtà è questa, che dove tracolla dal mercato immobiliare irlandese, si stima adesso che negli ultimi 5 anni le case irlandesi hanno perso 65% del valore. Sì. Quest'anno sono stato fatto 13.000 nuove mutui, nuove case comprate, invece nel 2006 la cifra era 200.000. Vuol dire che la bolla è successa, il mercato è in crisi profonda, ma il problema è anche questo, che come i nostri ascoltatori sanno, l'Irlanda ha formato questo National Asset Management Agency, agenzia per la gestione dei beni nazionali, anche se beni non sono, francamente, ma questa cosa è quella che è proprietaria di migliaia di questi casi che gli speculatori hanno restituito dopo il tracollo finanziario. Sì. E si stima lì che stiamo parlando di 400.000 di queste di case, dove adesso ovviamente non vive nessuno. Quello che sta succedendo adesso, che è molto interessante, che un giovane di Galway, Liam McInvard, personaggio anche da un certo punto di vista folcloristico, vero? Nel senso che ce lo vuoi descrivere? No, beh, è sempre uno dei tempi dei hippie, perché è uno con capelli folta, capelli lunghi, rossi, e beh, anche uno di madrelingua gaelica, che come sapete tanti irlandesi parlano gli irlandesi, ma pochi sono madrelingua irlandesi, questo sì, certo. Perciò è un personaggio molto interessante. Ma lui, credo che ha 26-27 anni, lui ha deciso di ottobre, ha deciso di occupare abusivamente una casa nella zona nord di Dublino, nel North Side, come chiamiamo noi. Questa è una casa che una volta valeva 550.000, 600.000 euro, adesso vale meno di 200.000. Lui, ma il punto, il perché di questa cosa, lui dice che se guardi in giro a Dublino la sera ci sono almeno 2.000 persone senza tetto, allora e qui ci sono tutti questi casi e appartamenti vuoti, allora perché? Poi comunque la cosa più interessante è questa io trovo molto interessante, è che in ottobre, per esempio, un giudice ha assolto un William Tui, si chiama, sì, che è il padre separato, ma separato con 7 figli. E questi, anche questi, questo avevo occupato abusivamente una casa nella campagna irlandese, Tullamore si chiama il posto, e il giudice l'ha assolto perché lui è stato accusato di occupazione abusiva, bla bla bla, e il giudice gli ha dato retto e lui è rimasto lì. E questi del Occupy, questi che stanno occupando queste case, si chiama, ovviamente hanno preso spunto del Occupy Wall Street, loro adesso si chiamano Occupy Nama, l'agenzia dei beni, questi vogliono occupare tutto un appartamento a Cork, che è una città a sud dell'Irlanda, e sicuramente questo finirà in tribunale, loro vogliono portarlo in tribunale, perché si sono organizzati, hanno promesso di fare un asilo, fare un soup kitchen, sai, una mensa per i poveri, varie cose, e loro vogliono portarlo in tribunale per vedere se il giudice abbia il coraggio di dire no, non potete fare così. Quindi insomma non solo un fenomeno di nicchia, ma attorno a questo movimento si sta cercando, c'è un allargamento, nel senso che è una delle tante cose che si sta facendo per tentare di risollevare un po' l'economia, però è anche un qualcosa di culturale, mi pare di capire, vero? Sì, ma Federico, il punto è questo, di nuovo, come sapete tanti vostri ascoltatori, la crisi irlandese non era una crisi industriale, era una crisi bancaria, sì. Si stima che le banche hanno perso tipo 106-110 miliardi di euro, che per un piccolo paese come l'Irlanda è una cifra stravagante. Perciò questo movimento dice adesso, ma queste banche che hanno perso tutti questi soldi, noi, il governo ha dato a queste banche 85 miliardi per coprire i loro debiti, e invece qui c'è gente per strada che senza tetto, gente senza lavoro, e le banche vanno avanti come se non ci fosse niente. Perciò sai, gli irlandesi quando si arrabbiano sul serio, sì. E si stanno arrabbiando molto sul serio. Abbiamo pubblicato sulle nostre pagine di Facebook una foto, un articolo anche sul leader del movimento in Irlanda. Grazie davvero Patrick, buon lavoro per la tua attività, ci ritroveremo qui sicuramente nelle prossime puntate all'Altra Europa. Ciao e buon sabato. Volentieri. L'Ungheria ancora protagonista all'Altra Europa, ne abbiamo parlato in queste settimane da quando è stata approvata la nuova costituzione di fatto del premier Orban, che tanto sta facendo discutere, che tanto ha allarmato anche gli altri paesi dell'Unione Europea. E ne parliamo perché Gigi Donelli, il nostro collega di Radio 24, è stato qualche giorno a Budapest e dintorni, appunto per fotografare la situazione, per capire quello che sta accadendo, con chi ha la possibilità di vederlo da lì dentro, quindi di incontrare le persone, parlare con i colleghi, analizzare la situazione sul luogo. E ci sarà un reportage, c'è stato questa mattina, ma alle 19:30, 30 minuti in cronaca, il programma di Gigi Donelli sarà interamente dedicata alla situazione ungherese, e anche noi però per capire quello che sta accadendo vogliamo darvi un assaggio, e lo facciamo grazie all'intervista a Péter Magyar, che è un giornalista e collaboratore dell'ANSA, che ha dato appunto a Donelli una sua interpretazione, una sua lettura dei fatti ungheresi. In Europa c'è una crisi dell'euro, una crisi dell'indebitamento, e Ungheria, esposta per i suoi debiti, è nell'occhio del ciclone finanziario attualmente, e la politica economica del governo Orban non è riuscito a dissipare, diciamo, i dubbi. Per esempio, per colmare il deficit dei conti pubblici, lui ha nazionalizzato i fondi pensione privati. È una misura che, secondo molti, è illegale, perché toccato della proprietà privata. Comunque, forza della maggioranza di 2/3, con una legge l'ha fatto. È un esempio di raccontare la politica economica non ortodossa di Orban. Gravare di imposte pesanti i multinazionali. Lui, nei termini di una politica nazionalista ungherese, dicendo che noi dobbiamo tassare i multinazionali e non gli ungheresi. Mentre l'economia ungherese attualmente è tirato soprattutto dai multinazionali presenti qui in Ungheria, aziende tedesche, francesi, anche italiani, che danno, diciamo, il risultato più importante dell'economia, della crescita economica ungherese. Allora, questi multinazionali sono molto scontenti. Per dire la complessità della situazione, quando in Ungheria sentiamo la mancanza della democrazia e il svuotamento degli istituti democratici, devo dire che la gente non è tanto preoccupato per questo, è piuttosto preoccupato per la sua situazione finanziaria verso le banche. E allora, per raccontare tutta la complessità della situazione attuale, Orban ha spezzato la democrazia ungherese, ma forse riuscirà di risolvere una situazione finanziaria molto delicata, anche se è vero che senza l'aiuto del Fondo Monetario Internazionale sarà una sconfitta anche questa. Secondo me, tutto quello che succede attualmente in Ungheria non è soltanto un affare ungherese, riguarda tutta l'Europa. L'altra Europa. Quello che accade in Ungheria, ebbene sì, avrà influenza in tutta Europa. Queste le parole di Péter Magyar. Vi ricordo, alle 19:30 Gigi Donelli conduce 30 minuti in cronaca con uno speciale dall'Ungheria. E vogliamo rimanere però in tema, nel senso che in Ungheria in queste settimane si parla molto di diritti civili, di diritti umani, di diritti anche della libertà di stampa, diritti che la nuova Costituzione, anche soprattutto la nuova legge sui media sta appunto relegando, sta comunque restringendo, e di libertà di stampa e di quanto i diritti umani possono incidere sull'ingresso di un'altra nazione all'interno dell'Unione. Stiamo parlando della Turchia, appunto, quanto sia fondamentale questo percorso. Andiamo in Turchia. Hier, liebes, in Deutschland soll es doch so kalt sein. Ich habe es selbst gestrickt. Die Deutschen sollen doch so dreckig sein. Die Deutschen essen Schweinefleisch und Menschen. Echt? Die essen Menschen? Ich werde euch alle mitnehmen nach Almania. Hier sieht's aber seltsam aus. Das sieht ja genauso aus wie bei uns. Eine Riesenratte und eine gibt's Riesenratten. Und das ist unsere eigene Toilette. Und was ist das für ein komischer Stuhl? Oh. Mo. Wir dürfen die Geschenke davor. Quello che state ascoltando è un trailer in lingua originale di un film che si intitola Alemagna, che ho, ho visto proprio ieri sera e ve lo consiglio. Benvenuti in Germania, è una bellissima storia sui rapporti tra Germania e Turchia, ma anche qui si parla di integrazione, quindi è una storia locale forse, perché stiamo parlando di un'altra nazione, ma che veramente riguarda e può insegnare a tutta Europa, una storia molto emozionante, un film che vi consiglio. E con questo film andiamo a parlare di libertà di stampa in Turchia, e lo facciamo perché in questi giorni è stato pubblicato una gazzetta da tutti i giornalisti carcerati, un'iniziativa che ha fatto molto parlare, una pubblicazione di 16 pagine redatta da 43 giornalisti in carcere, un qualcosa, un atto forte, un atto di denuncia, per capire che cos'è, per avere un'esperienza diretta di questa rivista. Abbiamo invitato Fazila Matt, giornalista e corrispondente dalla Turchia per l'Osservatorio Balcani. Ben ritrovata, Fazila. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a te. E, qual è il nome esatto di questa gazzetta? Il nome è Tutuklu Gazete, che è traducibile come giornale imprigionato, giornale agli arresti, giornale detenuto, insomma. Mm-hmm. Ed è, insomma, è stato un bel sasso lanciato in questo mare, nel senso che è stato un atto di denuncia fortissimo sul valore della libertà di stampa in Turchia. Sì, sì, perché appunto allo stato attuale in Turchia si trovano tra giornalisti, editori e distributori, e ci sono quasi 100 operatori della stampa in prigione in questo momento. È una situazione che appunto è molto preoccupante, perché la grandissima parte di questo gruppo è dentro in custodia cautelare, con l'accusa di avere legami con organizzazioni terroristiche. E quindi ecco, è una situazione preoccupante. Certo, Fazila, tra l'altro quello appunto della libertà di stampa e dei diritti civili è anche uno dei nodi cruciali nel percorso di avvicinamento della Turchia verso l'Unione Europea. E certo, infatti la Turchia è stata richiamata, insomma, a più riprese, anche molto recentemente, e proprio per il fatto che ha delle leggi per la lotta al terrorismo e il codice penale turco che rendono molto ampio la definizione di terrorismo, di quello che è chiamato terrorismo, e appunto il Parlamento europeo già l'anno scorso a marzo aveva parlato di un preoccupante peggioramento della libertà di stampa in questo senso, perché anche se non ci sono elementi legati direttamente a azioni terroristiche armate, molte volte i giornalisti si trovano accusati proprio di far parte di organizzazioni a partire da quello che hanno scritto. Le prove molte volte sono i loro scritti, ecco, oppure tutte cose extra, cioè che in realtà sono al di fuori di un atto terroristico, certo, come si dovrebbe definire. Ascolta, e l'opinione pubblica è sensibile a questa cosa? Cioè ci sono comunque proteste interne anche o viene taciuta? Le proteste ci sono, e già il fatto che sia stato fatto un giornale come quello di cui abbiamo parlato all'inizio è un segnale che comunque anche fuori c'è un sostegno nei confronti di questi giornalisti e anche contro questa situazione. E purtroppo però la maggioranza dell'opinione pubblica, sto parlando un po' della gente comune, sì, resta all'oscuro della situazione, perché c'è una sorta di autocensura all'interno dei media che diciamo che impediscono a priori il fatto che tutta questa condizione venga insomma esposta dettagliatamente o comunque che trovi ampio ascolto. Certo. Ci sono certamente quasi quotidianamente le manifestazioni di protesta dei lavoratori del settore, quelli sì, che perché sono preoccupati appunto che prima o poi possa toccare anche a loro. Certo, quindi ovviamente. E Fazila, tra l'altro, in questi giorni, il 19 gennaio, c'è un anniversario importante, un anniversario significativo proprio per quello che riguarda la libertà di stampa e la libertà di espressione. Sono i 4 anni dalla morte di Dink. Ci vuoi dire tu chi era e dopo 4 anni cosa si è scoperto e cosa sta accadendo? In realtà saranno 5 anni adesso, il 19 gennaio, e la prossima udienza è fissata per il 17 gennaio, quindi proprio 2 giorni prima della ricorrenza dell'anniversario del suo omicidio. I giudici hanno accennato al fatto che vorrebbero ormai arrivare alla conclusione del processo, però gli avvocati della famiglia Dink sono riusciti a inserire tra le prove proprio recentemente una lista di numeri telefonici che potrebbero portare ad altri indiziati nel processo, perché al momento ci sono 3 imputati che sono ritenuti responsabili dell'omicidio, però sono considerati dagli avvocati diciamo solamente gli esecutori. I veri mandanti rimangono all'oscuro ci sono gli avvocati appunto sottolineano il fatto che ci sono delle responsabilità da parte delle autorità statali a partire dai servizi segreti che non sono riusciti a impedire appunto questo omicidio pur avendone avuto notizia precedentemente. Certo, quindi insomma si vuole dare un volto comunque ai mandanti dell'omicidio di questo giornalista, che è uno dei simboli appunto per la lotta della libertà di espressione, la libertà di stampa in Turchia. Sì. Balcanicaucaso.org, abbiamo già pubblicato il sito dove c'è un tuo articolo molto bello sulla storia di Dink. Grazie davvero Fazila e buon lavoro, in bocca al lupo. Ciao. Ancora buon sabato da Federico Taddia, ancora l'altra Europa con gli Alcazar, che appunto Peter Bescapè, per esempio, dall'altra parte del vetro, usa regolarmente nelle sue serate in disco, più o meno regolarmente, ogni tanto, insomma, musiche. Una musica svedese per introdurre il prossimo argomento. Lo sapete, andiamo anche alla ricerca di altre notizie, di, chiamiamole anche curiosità, però esperienze che ci piace narrare, che ci piace scoprire, che ci piacerebbe anche rendere replicabili. Questa è un'esperienza appunto che arriva dalla Svezia ed è stata inaugurata e lanciata da una cooperativa di agricoltori svedesi. E un po' il tono del tutto è: dimmi che avanzi hai nel frigo e ti farò incontrare chi ha gli altri ingredienti, tutti insieme ci può mettere lì per fare una cena completa. Questa è un po' la finalità di fondo. Abbiamo chiesto di studiare il tutto a una delle nostre voci ufficiali quando si parla di Svezia. Diamo il ben ritrovato a Cristina Kappelin, corrispondente in Italia della televisione pubblica svedese. Ciao Cristina. Ciao Federico. Ciao. Buongiorno. Tra l'altro insomma, abbiamo iniziato in leggerezza, parleremo di questa cosa che è altrettanto leggera. So che però tu in questo momento sei in automobile e stai andando in direzione Giglio per lavoro. Un po' meno leggera rispetto al rest dating di cui parleremo. No, no, infatti è che abbiamo saputo che ci sono, almeno sappiamo, voglio dire, l'incidente di per sé è una notizia tragica che bisogna seguire. In più sappiamo che ci sono degli svedesi a bordo e quindi mi sono dovuta precipitare, ecco. Quindi appunto una tragedia che avrà sicuramente eco internazionale, proprio perché ci sono tanti turisti stranieri e sì, tu insomma sei una testimonianza diretta. Infatti adesso voglio dire, per fortuna sembra che tutto sommato sia riuscito a salvare tanta gente, però non si sa mai come si sviluppa la vicenda durante il giorno, quindi per noi è importante esserci. E ti ruberemo veramente pochi minuti, il tempo necessario per raccontare di questa esperienza apparentemente bizzarra, che però insomma sotto a diverse finalità che non ci dispiacciono affatto. Qual è intanto il nome del sito? Guarda, il sito si chiama Landmannen, sarebbe come, sai, perché si tolgono quei vocali strani che abbiamo noi, Landmannen Riksförbund si chiama l'organizzazione, sono i nostri coldiretti fondamentalmente. Mm-hmm. E hanno avuto questa idea effettivamente divertente di chiedere alla gente di registrarsi su un sito e raccontare quello che hanno come avanzi nel frigo, e cercano poi a trovare il match, cioè attraverso questo sito si trova il match di qualcun altro che magari ha altri ingredienti che vanno bene insieme alle mie o ai miei, e poi si fa una cena insieme, e questo diventa sia un modo di risparmiare, diciamo, e cioè voglio dire finire quello che hai in frigo, e chissà, magari l'inizio di un incontro romantico se sei un po' fortunato. E già 600 iscritti al sito in una nazione, la Svezia, dove circa un quinto degli acquisti alimentari viene buttato in un anno, così da qualche sondaggio, ma ecco, lo svedese di suo ama questo tipo di socializzazione che è un po' casuale, diciamo un po' random, quindi darebbe l'idea di appunto una popolazione molto aperta, che ha voglia di entrare nella casa altrui, nella casa dello sconosciuto, con la scusa di una cena. Ma guarda, io che forse sono stata in Italia troppo, che un attimo mi sono chiesta, ma io andrei a mangiare qualcosa che è rimasto in frigo da qualcuno che non conosco, boh. Ma diciamo che gli svedesi fin dall'inizio hanno molto amato tutto il dating su internet, per dire, voglio dire, ormai è veramente è molto molto diffuso in Svezia, e poi è un popolo un po' risparmioso, per cui credo che piaccia anche l'idea di veramente utilizzare tutto fino in fondo. In fondo l'idea è carina, però io francamente faccio un po' fatica a capire come funziona. Bisognerebbe, purtroppo non conosco nessuno che abbia avuto questa esperienza ancora. Ok, e ti è venuta voglia di aprire il tuo frigorifero e vedere che avanzi erano rimasti? Guarda, io penso che magari il futuro di siti del genere potrebbe essere tra gli amici, perché bisogna magari anche arrivare oltre il tabù di pensare di invitare gente a cena mangiando avanzi, e non andare a prendere le cose migliori, diciamo, e tutto nuovo, ma in fondo credo che in Svezia, come in la Svezia sicuramente non è l'unico paese in cui si butta via un sacco di cose, e quindi in questo senso ovviamente è virtuosa l'idea. Assolutamente. Ricordiamo il sito landmannen.com, abbiamo già messo il link anche nelle nostre pagine dell'Altra Europa su Facebook. E Cristina, grazie davvero, ti lasciamo al tuo lavoro e in bocca al lupo. Va bene. Ciao. Grazie, a presto. Ciao. A presto. Europost-it. Twitter contro i luoghi comuni. In Svezia ci pensa la gente comune. Gli svedesi sono chiusi, freddi e bevono tanto. Hanno arredamento standardizzato e mangiano solo aringhe e salmone. Questi sono alcuni dei luoghi comuni che gli svedesi cercano di staccarsi di dosso in tutti i modi. Questa volta ci provano con Twitter. Il Ministero del Turismo ha capito che nessuno è capace di perorare la causa meglio dei cittadini. Perché non chiedere a loro di rappresentare la Svezia in rete? Finora, a gestire l'account ufficiale del paese sono stati un giornalista, un ragazzo dei sobborghi, il figlio di un immigrato bosniaco e un giovane pastore appassionato di musica elettronica. Ognuno si è presentato alla rete dimostrando che ogni svedese è unico e non standardizzato come il suo arredamento. Andate a dare un'occhiata visitando twitter.com/Sweden. Buongiorno Maria Chiara. Ciao Federico. Riconosci queste note? L'hai fatta apposta. Assolutamente. Ci vuoi dire tu di cosa si tratta? Allora, stai cercando di introdurre il mio lavoro, che è complicato. Io mi occupo di opera comique e quello che stai facendo ascoltare ci rinvia al nostro repertorio. Esatto. Siamo un teatro che ha molta storia, anche se è stata alterna, per cui non sempre siamo stati sulla cresta dell'onda, ma in questo periodo ci siamo. Dolle, benvenuto a Maria Chiara Prodi, la testimone della storia di oggi. Lo sapete, ci piace trovare storie virtuose in giro per l'Europa. Questa settimana Euronet ci ha anche chiesto, ma cerchiamo anche storie di donne che ispirano il sapore europeo. Ma credo che il tuo percorso professionale, il tuo percorso personale in questo bellissimo intreccio siano un'ottima fotografia di cosa voglia dire vivere l'Europa, respirare l'Europa e fare cultura europea. E tu, Maria Chiara, ti trovi a Parigi da quanto? Ormai da 7 anni, senza contare l'Erasmus e la tesi all'estero, quindi diciamo per abbreviare 7 anni. Con un lavoro prestigioso, magari ieri ti ho chiesto ma è quello che volevi fare da bambina, non c'è una risposta, però hai detto ma probabilmente non è stato un caso se sono arrivata a fare quello che sto facendo. Beh, diciamo che soprattutto ho studiato quello che mi piaceva e quando ho finito di studiare quello che mi piaceva ho scoperto che esisteva un lavoro corrispondente, quindi è stata una bella scoperta. Ecco, di cosa ti occupi in questo importante teatro? Dunque, io sono assistente artistica della direzione di questo teatro, che si chiama appunto Opera Comique, che è il teatro dove è nata la Carmen di Bizet e altri grandi capolavori come Pelléas e Mélisande di Debussy, proprio della musica francese. Quindi ho studiato a Bologna, al conservatorio, mi sono laureata in scienza della comunicazione, ma già con una tesi in organizzazione dello spettacolo, poi ho fatto un master in organizzazione dello spettacolo a Milano e poi sono partita. Maria Chiara, cosa vuol dire per te oggi avere una visione internazionale, una visione europea in quello che si fa? Tu lì fai l'italiana, ti senti un'italiana in Francia, ti senti parigina, ti senti figlia dell'Europa? Mi sento figlia dell'Europa perché penso che per la nostra generazione sia qualcosa di naturale. Abbiamo avuto accesso non solo a un'informazione ma anche la possibilità di viaggiare, per cui con l'Erasmus e con tutti gli strumenti che abbiamo avuto a nostra disposizione diciamo che la mobilità è una cosa naturale e sentirsi europei altrettanto. Poi, vabbè, a parte la cosa buffa di occuparsi da italiana di opera francese, che quindi magari è già in sé una cosa strana, visto che l'opera l'abbiamo inventata noi, ma diciamo che qui mi sento europea, mi sento, non so se mi sento francese, ma comunque mi sento pienamente integrata in questo paese. E poi è interessante anche tenere le fila della comunità italiana da questo punto di vista. Certo, qui. Infatti lì ci arriviamo tra un attimo. Prima era una domanda banale, però credo abbastanza significativa. Quando ti presenti, sono straniti più dal fatto che sei italiana e ti occupi di questo, che sei così giovane, che sei donna? C'è qualche etichetta che ti porti dietro e ti infastidisce o che comunque ti fa, agli occhi degli altri, sorprende? O niente, sono solo pregiudizi arcaici che ci portiamo dietro noi? Ma penso che se mi poni la domanda è perché vivi in Italia, insomma, qui francamente quando sono arrivata molte delle mie colleghe erano giovani mamme e hanno preso dei posti di responsabilità senza nessun problema da parte della direzione del teatro e appena, insomma, ovviamente ho fatto anch'io la mia parte di precariato, ma appena è stato possibile ho avuto un contratto a tempo indeterminato e non ha influito che fossi giovane o donna o straniera, insomma, qui sono, poi vabbè, non posso parlare in maniera generale perché ovviamente magari diciamo che l'ambiente artistico e culturale è un po' più naturalmente aperto all'internazionalità. Certo. Però diciamo che l'unica etichetta che mi dava fastidio era nipote di, e quella me la sono tolta partendo perché all'estero si sta molto più rilassati. Assolutamente. Infatti, ma era chiaro, quindi facciamo il salto, perché non ti sei accontentata di trovare il lavoro che ti piaceva, ma insomma è allargato questa tua voglia di contaminazione culturale anche ad altre attività. Una lì coordinando un po', comunque animando una rete di associazioni italiane a Parigi, in Francia, ho capito bene? Ma sì, quando sono arrivata c'era già un po' questa cosa che si chiama Forum delle Associazioni e grazie a una mia amica, Patrizia Molteni, anche lei di Bologna, che aveva già cercato di mettere insieme le associazioni italiane in Francia e ce ne sono addirittura una cinquantina, penso un po'. Molte sono, diciamo, quelle che si può dire relative alla prima immigrazione, no? Per cui ci sono associazioni regionali con, diciamo, dei membri un po' più anziani, e poi c'è tutto lo scoppio del nuovo associazionismo, dei ragazzi che sono arrivati e magari appunto si sono riuniti attorno a dei temi culturali o sociali o diversi, insomma. E tra questa nuova immigrazione ci metto anche me, con l'antenna di Libera appena creata, insomma, da 4 anni, certo, qui a Parigi. Ecco, ma perché si... nel senso, poi magari ci fai qualche esempio di alcune associazioni, perché coprono veramente uno spettro molto ampio. Il desiderio qual è? Cioè, ricreare un'oasi italiana lì, o c'è più una volontà appunto di incontro e confronto tra le due nazioni? Beh, diciamo che... ma c'è sempre questo modo di chiamarsi cugini, no? I cugini d'Oltralpe, che è sentito sia dall'Italia verso la Francia che viceversa. Molte associazioni, per esempio, non so, si occupano di ritrovare gli antenati, insomma, magari hanno un approccio che può fare sorridere, ma sono molto interessanti. Altre si occupano di valorizzare il patrimonio artistico italiano e quindi organizzare viaggi, eccetera. Ce ne sono alcune che mi piace molto ricordare, come Fratellanza Reggiana, che sono nate, anzi, durante il fascismo, e che hanno fatto quindi della solidarietà molto attiva e resistente in Italia. Quindi c'è un panorama assolutamente variegato. Leggevo, ci sono anche ancora in vita dei figli o pronipoti, spero, più che figli, di Garibaldini, vero? Assolutamente, è una cosa che non si sa e che ho scoperto, è che appunto i Garibaldini dopo i 1000 hanno continuato a impegnarsi in spedizioni dalla guerra di Spagna alla guerra franco-prussiana, e praticamente hanno continuato a riunirsi in brigate, e ci sono ancora i loro discendenti lungo il canale San Martin in una casetta molto carina che gli era stata regalata tra l'altro dalla vedova di un editore italiano che aveva fatto fortuna in Francia, Ciro del Duca. Quindi ci sono delle storie incredibili a scavare. Sono intrecci culturali che appunto ci piace trovare. E quindi appunto questo lavoro di rete, un portale che sta nascendo, e poi anche una tua creazione invece, un altro portale, un sito che è exbo.org. Exbo sta per ex bolognesi, una sorta di catalogo virtuale, ma è molto di più del mero catalogo di teste, di persone di Bologna che hanno scelto di abbandonare la città, di andare all'estero, e tu le hai volute riacchiappare. Un'esperienza probabilmente replicabile per qualsiasi altra città italiana. Cosa c'è sotto? Qual era e qual è il tentativo di questa associazione? Guarda, innanzitutto, fai bene a dire replicabile. Io spero proprio di essere contattata, perché ci piacerebbe che questa nostra esperienza fosse vissuta anche da altre parti d'Italia, magari un giorno fare una grande federazione. No, beh, è nata da una vicenda molto concreta. Noi siamo 3 fratelli e tutti e 3 siamo in giro all'estero. Mia sorella in Germania, mio fratello era negli Stati Uniti, poi in Danimarca, adesso in Francia. E tutte le volte che tornavamo a Bologna per Natale facevamo una festa con gli amici, e poi abbiamo scoperto che quasi tutti erano emigrati. E però tra tutti questo gruppo di amici, diciamo, coltivavamo un po' l'avversione nei confronti della locuzione cervelli in fuga, perché la troviamo assolutamente sbagliata, nel senso che il problema dell'Italia magari è la mancanza di mobilità, la mancanza di ricettività di risorse e idee. Non è tanto il fatto che ci siano delle persone che viaggiano, cosa che dovrebbe essere naturale al giorno d'oggi, e quindi ci siamo detti che volevamo fare qualcosa. Abbiamo cominciato un percorso tutti insieme, come dici tu, abbiamo creato questo catalogo, ma che è poi solo una visualizzazione di quello che siamo, un catalogo con le nostre competenze, e l'abbiamo messo a disposizione della città, perché in realtà vorremmo essere proprio nodi di informazione. Quindi grazie al nostro percorso professionale e grazie al fatto semplicemente di vivere in contesti diversi, noi vorremmo captare delle informazioni, delle idee possibili da riportare a Bologna, con l'idea di, appunto, questo catalogo l'abbiamo chiamato Book Dire, le risorse perse, perché finché siamo tutti isolati e lontani da casa siamo risorse perse, ma vorremmo che si trasformasse in book delle risorse sparse, perché una volta che sei in rete, una volta che rimetti in circolo le tue risorse, puoi essere allocato dove vuoi, ma non ti è impedito di esprimere partecipazione e cittadinanza anche dall'estero. Assolutamente, grazie davvero, Maria Chiara. Allora, ricordiamo www.exbo.org il sito, e ci ritroveremo sicuramente qui all'Altra Europa, perché hai 1000 attività e quindi presto. Ma molto volentieri. Va bene, grazie, bocca al lupo per tutto. Ciao, ciao, ciao, ciao. Questa è l'altra Europa. Un grazie a voi che siete stati in nostra compagnia. Come sempre, grazie a tutta la squadra che con me ha scritto la puntata: Margherita Ina, Viola Frifa e Giorgio De Luca, oggi in assistenza, e Peter Bescapè alla parte tecnica. Noi ci ritroviamo sabato prossimo, oppure in rete, radio24.it, in Twitter e in Facebook. Ancora ciao da Federico Taddia.